soliti, solidi, solidi, anonimi noi. Gira sui gomiti, scratch del volbi di boy. Spruzza i tuoi codici, rimedes, sponi ti vuoi. Farti sentire ma lo fai solo se coveri. Insisti, non sono se suoni e se leggi i toponi tuoi. Genitori vogliono che ti ricoveri. Il rap non porta allori, poi si resta sempre poveri. Man, corra da vedo oltre dove tu vedi. Questa città è morta sotto i miei piedi, puzza di fogna nella California. Tra queste teste vuote c'è anche gente che sogna. E la vita è la storia che si scrive indelebile. Mica un tratto di matita qua. Tutti fighetti o figli di papà o tutti attinenti alla moda che fa. Allora tra mamma spinge più radaman, poche fiamme su questa città. Messi soli qui. Fuoco e fiamme su questa città. Questa città. Rime dalla street. Devo trovare chi le capirà. Chi le capirà. Mille rime, passi e firme sui muri della città. Questa città. Senza fine, smazzo stile. Dalle strade della mia città. La mia city abbraccia Morfeo, sta a riposo. Ma dai bassi fondi un potenziale inesploso. Fomenta un incendio doloroso per i vostri cool angels. Supereremo questi giorni scuri. Malattia che t'assale, apparato auricolare cerebrale. Infetto ogni cellula staminale. Dalla strada al locale pompa il suono più robusto. Sogno una folla strafatta come a gusto. Questa è la prassi, il nostro secondo round. Attraverso l'antica zanche che mi fa da background. Inietto la mia dose di fisso, zero all'ora. E fa tuffotti e costa anche meno delle Marlboro. Attentiamo al pubblico, decoro via tutto, pure il brain. Perdi la carreggiata se sul guardrail. Questo è un suono che ti arriva e non ha rivale. Che ti rimette a posto l'assetto, la visuale iconoclasta. Finché la nostra ora non vorrà stoccare. La mia città ha troppo credito da bruciare. Allora 07 Messina va in fiamme. Più su di due spalle, più su drink e cane. Messi soli qui. Fuoco e fiamme su questa città. Questa città. Rime dalla street. Devo trovare chi le capirà. Chi le capirà. Mille rime, passi e firme sui muri della città. Questa città. Senza fine, smazzo stile. Dalle strade della mia città. Noi siamo pronti per questo. Voi siete pronti per questo. Noi siamo pronti per questo. Voi siete pronti per questo. Siamo pronti per questo. Siete pronti per questo. Siamo pronti. Siete pronti. Siamo pronti per questo. Voi siete pronti per questo. Io sono pronto per questo. È tempo che sono pronto. Il tempo che tengo sto tempo. Quando giro versa alza la sera. Gli occhi addosso come malena. Tutti i rapper d'arena. Perde chi c'ha la madre coscienza. Nego sta scena, ogni rima fa pena. Prendi la penna, incendia il sistema. Prendi da trama e trema. R.A.D.I. in connessione, Calabro sicula. Con me, Nino e Peppe Cirino, Ida classifica subdoli. Come Caligola sono real blessing. Non si concede grazia come fatto con Don Press. Primo in catalessia, apocalisse che aspetto. Mirando il mare che bagna le sponde dello stretto. Scommetto, la fosse alta bookmaker. Oggi come ieri sputo rime, servile beatmaker. Mentre già tu dormi sono in giro con gli spray. Mentre se ne sogni faccio giri di freestyle, storie che tu non saprai mai, saprai mai, mai. Poi ma non mai. Fuori dal tuo mondo, un altro mondo che non sai. Siamo le fiamme sotto cui brucerai. Non mentiamo mai, non sai, mai, mai. Poi ma non mai. Più ratti che persone. Non fatti ma parole. Con tanti dove dove. Se canti senza un nome. Tu fatti promozione. Se spacchi sul campione. Missione. Rap il culo di questa nazione. Aspettando il sole, spliff che mi cremo. Lettere d'amore scritte su un treno. Voglia di fuggire e non tornare più. Rispetto agli amici ed odio alle divise. Rosso attorno alle pupille. Se schiariamo le tonsille. Bastoniamo più di Bad e Terence Hill, man. Trama più rada. Bombe in questa notte insonne. In strada. Mentre Messina già dorme.